Cari fratelli e sorelle, nelle ultime due catechesi abbiamo parlato sulla figura di San Pietro. Adesso vogliamo, in quanto le fonti permettono, conoscere anche gli altri 11 apostoli un po' più da vicino, e perciò parlo oggi sul fratello di Simon Pietro, su Sant'Andrea, anche Elio, uno dei 12. La prima caratteristica che colpisce in questa figura di Sant'Andrea è il nome. Non è un nome ebraico come si dovrebbe aspettare, ma è un nome greco, e questo è un segno non trascurabile di una certa apertura culturale della sua famiglia. Siamo in Galilea, dove la lingua greca e la cultura greca sono abbastanza presenti. Nelle liste dei 12, Andrea occupa, nel Vangelo di Matteo e di Luca, il secondo posto, il quarto in Marco e negli Atti degli Apostoli. In ogni caso, egli godeva sicuramente di grande prestigio all'interno delle prime comunità cristiane. Il legame di sangue tra Pietro e Andrea, come anche la comune chiamata rivolta a loro da Gesù, emergono esplicitamente nei Vangeli. Qui leggiamo: mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Dal quarto Vangelo, dal quale abbiamo sentito un brano, raccogliamo un altro particolare importante. In un primo momento Andrea era discepolo di Giovanni Battista, e questo ci dimostra che era un uomo che cercava, che condivideva la speranza di Israele, che voleva conoscere più da vicino la parola del Signore, la realtà del Signore presente, che era realmente un uomo di fede e di speranza. E dal Battista, Giovanni Battista, del cui era discepolo, sentì un giorno proclamare Gesù come l'agnello di Dio. Allora Andrea si mosse, insieme a un altro discepolo innominato, seguì Gesù, quello chiamato da Giovanni agnello di Dio. L'evangelista riferisce: esse videro dove dimorava, e quel giorno dimorarono presso di lui. Andrea godette quindi di preziosi momenti di intimità con Gesù. Il racconto prosegue poi con una annotazione significativa. Dice così: uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e avevano seguito Gesù, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse a Gesù, dimostrando subito un non comune spirito apostolico. Andrea dunque fu il primo degli apostoli ad essere chiamato a seguire Gesù. Proprio su questa base la liturgia della Chiesa bizantina lo onora con l'appellativo di Protoclitos, che significa appunto primo chiamato. Ed è certo che anche per il rapporto fraterno tra Pietro e Andrea, la Chiesa di Roma alla Chiesa di Costantinopoli si sentono tra loro in modo speciale chiese sorelle, e ritornerò su questo punto. Per sottolineare questo rapporto, il mio predecessore Papa Paolo VI nel 1964 restituì le reliquie di Sant'Andrea, fino allora custodite nella Basilica Vaticana, al vescovo metropolita ortodosso della città di Patrasso in Grecia, dove, secondo la tradizione, l'apostolo fu crocifisso. Le tradizioni evangeliche rammentano particolarmente il nome di Andrea in tre occasioni che ci fanno ancora un po' più conoscere quest'uomo. La prima occasione è quella della moltiplicazione dei pani in Galilea. In quel frangente fu Andrea a segnalare a Gesù la presenza di un ragazzo che aveva con sé 5 pani d'orzo e 2 pesci, ben poca cosa, egli rilevò, per tutta la gente convenuta in quel luogo. Merita di essere sottolineato, nel caso, il realismo di Andrea. Egli notò il ragazzo, quindi aveva già posto la domanda: che cosa facciamo per la gente? E naturalmente si era anche reso conto della insufficienza di queste poche risorse. Gesù, tuttavia, come abbiamo sentito, seppe farle bastare per la moltitudine di persone venute ad ascoltarlo. La seconda occasione dove appare Andrea fu a Gerusalemme. Uscendo dalla città, un discepolo fece notare a Gesù lo spettacolo delle poderose mura che sorreggevano il Tempio. La risposta del maestro fu sorprendente. Disse che di quelle mura non sarebbe rimasta pietra su pietra. Andrea allora, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, lo interrogò: «Dici, quando accadrà questo? E quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?» Per rispondere a questa domanda, Gesù pronunciò un importante discorso sulla distruzione di Gerusalemme e sulla fine del mondo, invitando i suoi discepoli a leggere con accortezza i segni del tempo e a restare sempre vigilanti. Dalla vicenda possiamo dedurre che non dobbiamo temere di porre domande a Gesù, ma al tempo stesso dobbiamo essere pronti ad accogliere gli insegnamenti anche sorprendenti e difficili che egli ci offre. Finalmente nei Vangeli è registrata una terza iniziativa di Andrea. Lo scenario è ancora Gerusalemme, poco prima della Passione. Per la festa di Pasqua, racconta Giovanni, erano venuti nella città santa anche alcuni greci, probabilmente proseliti o timorati di Dio, venuti per adorare il Dio di Israele nella festa della Pasqua. Andrea e Filippo, i 2 apostoli con nomi greci, servono come interpreti di questi greci e mediatori di questo piccolo gruppo. La risposta del Signore alla loro domanda appare, come spesso nel Vangelo di Giovanni, enigmatica. Ma proprio così si rivela ricca di significato. Gesù dice ai 2 discepoli e per loro tramite al mondo greco: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto». Che cosa significano queste parole in questo contesto? Gesù vuol dire: sì, l'incontro tra me e i greci avrà luogo, ma non come semplice colloquio breve tra me ed alcune persone spinte soprattutto da curiosità, no, con la mia morte, paragonabile alla caduta in terra di un chicco di grano, giungerà l'ora della mia glorificazione, dalla mia morte sulla croce verrà la grande fecondità, il chicco di grano morto, simbolo di me crocifisso, diventerà nella risurrezione pane di vita per il mondo, sarà luce per i popoli e le culture. Ancora una volta sì, l'incontro con l'anima greca, col mondo greco, si realizzerà e si realizzerà a quella profondità a cui allude la vicenda del chicco di grano che attira a sé le forze della terra e del cielo e diventa pane. In altre parole, con questa parola enigmatica, Gesù profetizza la Chiesa dei Greci, la Chiesa dei Pagani, con la Chiesa del mondo come frutto della sua Pasqua. Tradizioni molto antiche vedono in Andrea, il quale ha trasmesso ai Greci questa parola, non solo l'interprete di alcuni greci nell'incontro con Gesù ora ricordato, ma lo considerano come apostolo dei greci negli anni che succedettero alla Pentecoste. Ci fanno sapere che nel resto della sua vita egli fu annunciatore di Gesù, interprete di Gesù per il mondo greco. Pietro, suo fratello, da Gerusalemme attraverso Antiochia giunse a Roma per esercitarvi la sua missione universale. Andrea fu invece l'apostolo del mondo greco. Essi appaiono così in vita e in morte come veri fratelli, una fratellanza, come ci ha accennato, che si esprime simbolicamente nello speciale rapporto delle sedi di Roma e di Costantinopoli, chiese veramente sorelle. Una tradizione successiva, come anche ci ha brevemente detto, racconta della morte di Andrea a Patrasso, ove anche egli subì il supplizio della crocifissione. In quel momento supremo però, in modo analogo al fratello Pietro, egli chiese di essere posto sopra una croce diversa da quella di Gesù. Nel suo caso si trattò di una croce decussata, cioè incrocio trasversale inclinato, che perciò venne detta croce di Sant'Andrea. Ecco ciò che l'Apostolo avrebbe detto in quell'occasione secondo un antico racconto. Avrebbe detto: salve, o croce, inaugurata per mezzo del corpo di Cristo e divenuta adorna delle sue membra come fossero perle preziose. Prima che il Signore salisse su di te, tu incutevi un timore terreno. Ora invece, dotata di un amore celeste, sei ricevuta come un dono. I credenti sanno a tuo riguardo quanta gioia tu possiedi, quanti regali tu tieni preparati. Sicuro dunque, pieno di gioia, io vengo a te, perché anche tu mi riceva esultante, come discepolo di colui che fu sospeso a te, o croce beata, che riveste la maestà e la bellezza delle membra del Signore. Prendimi e portami lontano dagli uomini e rendimi al mio Maestro, affinché per mezzo tuo mi riceva chi per te mi ha redento. Salve, o croce. Sì, salve davvero. Come si vede? C'è qui una profondissima spiritualità cristiana che vede nella croce non tanto uno strumento di tortura, quanto piuttosto il mezzo incomparabile di una piena assimilazione al Redentore, al chicco di grano caduto in terra. Noi dobbiamo imparare da di qui una lezione molto importante. Le nostre croci acquistano valore se considerate e accolte come parte della croce di Cristo, si raggiunte dal riverbero della sua luce. Soltanto da quella croce anche le nostre sofferenze vengono nobilitate e acquistano il loro vero senso. L'Apostolo Andrea dunque ci insegni a seguire Gesù con prontezza, a parlare con entusiasmo di Lui a quanti incontriamo e soprattutto a coltivare con Lui un rapporto di vera familiarità, ben coscienti che solo in Lui possiamo trovare il senso ultimo della nostra vita e della nostra morte.